Ecco, proprio ritornando all'atto del riscatto, lo stesso veniva adempiuto offrendo una coppia di colombe o di tortore, questo naturalmente in base alle proprie disponibilità economiche. E trascorsi i 40 giorni prescritti dalla legge, come facevano gli altri, anche Maria e San Giuseppe salirono al tempio e fecero l'offerta. Nella devozione cristiana, l'offerta stessa di queste colombe diventa simbolo e segno chiaro della loro immacolata innocenza. Poi entrambi si dirigono verso questo sacerdote che trovano e accade una cosa molto strana. Questo sacerdote, poi lo conosciamo bene, San Simeone, che va al loro incontro e il Vangelo fa addirittura un elogio di questo santo sacerdote anziano, comparandolo quasi a Giuseppe. Infatti San Luca lo definisce uomo giusto e timorato. E sia Maria che San Giuseppe si commuovono per quello che è. Anche l'inno di lode iniziale che San Simeone dice, lo ricordiamo, San Simeone dice così: Ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Simeone aveva riconosciuto il Redentore. E Luca commenta l'episodio con queste parole. Il padre e la madre si stupivano, cioè San Giuseppe e la Madonna si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E la lode di Simeone continua, continua anche se è dolorosa in questo caso, perché dice: Ecco, egli è posto per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te, cioè a Maria, una spada trafiggerà l'anima. Questo santo nella sua visione intuisce non soltanto quello che il Signore gli ha permesso di vedere, quindi la redenzione, la sofferenza unica, immensa di Maria, ma anche quella di San Giuseppe che comprende in cuor suo quello che attende la sua sposa e questo suo amato figlio, diciamo così, anche se era padre virginale. Infatti Simeone benedice Maria. Ma anche San Giuseppe, come Maria, sentiva, benedice Maria, ma benedice San Giuseppe, benedice la coppia di sposi, ma anche lui, San Giuseppe, come Maria, sentiva in modo profondo e indicibile le trafitture di quella spada che avrebbero trapassato il cuore della sua sposa e di Gesù. Una visione dolorosa, addolcita e confortata in parte, in quel momento, dall'intervento della profetessa Anna di Fanuel, che alla loro vista inizia a lodare e a ringraziare il Signore e a parlare del bambino, dice il Vangelo, a quanti in Gerusalemme aspettavano la redenzione. E continuiamo questo cammino proprio man mano si svolge nel tempo. Sempre il Vangelo di Matteo racconta: Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Stiamo parlando dei magi. Con queste parole i tre re si presentano alla Vergine. Erano dei sapienti che si dedicavano allo studio degli astri. Gente, come scriveva Filone, uno storico di allora, che scruta i segreti della natura per giungere alla conoscenza della verità. È difficile dire esattamente da dove arrivassero. Sempre il Vangelo di Matteo racconta: Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Matteo 2,11. Notiamo però una cosa: che non si tratta più innanzitutto della grotta di Betlemme, ma di una casa che San Giuseppe aveva trovato, quindi anche come dignità, era un uomo che desiderava tutto il bene per i suoi cari, tutto il bene possibile. E qui ci dice sempre Matteo: I magi prostratosi lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Dal racconto dell'Evangelista, San Giuseppe non c'era, era assente, sicuramente fuori per lavorare. E anche in queste occasioni, cari amici, vediamo San Giuseppe come l'uomo della riservatezza. Del nascondimento, nascondimento per preservare la Sacra Famiglia in quanto custode e protettore, possiamo dire, dei divini misteri, nascondimento anche per questi sapienti che con fede si erano inginocchiati e avevano adorato Gesù. In questo modo probabilmente avrà pensato non avevano nessun motivo di dubitare della sua nascita miracolosa. Nascondimento anche perché solo i santi nomi di Gesù e Maria rimanessero ben fissi nella mente di questi visitatori, di questi magi. Passiamo Ma soprattutto in San Giuseppe, lo vediamo anche da queste piccole cose, queste piccole ma grandi cose, vi è un amore smisurato verso i suoi cari e una grande fede in Dio e nei suoi disegni. C'è delicatezza, c'è pazienza nello svolgere ogni atto e lavoro, c'è mansuetudine, forza e fermezza nel continuare, nonostante possiamo dire che erano tanti i problemi, soprattutto soprattutto la povertà, per quello che comportava. E ancora nascondimento di se stesso, per non essere presente anche durante la piena manifestazione di Gesù, proprio negli anni della vita pubblica e sul Calvario, e scomparire silenziosamente anche dal Vangelo. Questo ha voluto il Signore. E proprio questo nascondimento ha comportato per San Giuseppe, noi possiamo immaginarlo, perché nella sua posizione pensiamo che il Signore gli illuminasse il cuore, l'anima e la mente di quello che sarebbe stato poi un cammino particolare, fatto di grandi gioie, di amore grande nei confronti di Gesù e di Maria, ricambiato in modo totale e pieno, ma anche doloroso. E quindi prendere atto di questo disegno, farlo proprio e accoglierlo con tutto il cuore. E proprio nel silenzio dell'umiltà risplende quest'uomo della provvidenza che si mette totalmente nelle mani di Dio. San Giuseppe risplende nella Sacra Famiglia prima, per la Chiesa di Cristo poi, e anche per noi tutti che ogni volta ci rivolgiamo a Lui per i nostri bisogni spirituali, ma anche materiali. Egli silenziosamente, sempre il santo che porta con sé e in sé il Figlio di Dio, per offrirlo ad ognuno di noi con ogni benedizione e ogni lode. È stato custode in modo pieno e totale della Sacra Famiglia, ma è un santo a cui non sono state risparmiate né grandi preoccupazioni né dolori. Sappiamo infatti che i magi furono per intervento di Dio avvisati in sogno di non ritornare da Erode, ma di proseguire per un'altra via. Questo causò l'ira di Erode che, temendo di perdere il suo potere, fece uccidere tutti i bimbi di Betlemme dai 2 anni in giù. Possiamo immaginare che certamente i soldati non chiesero quanti anni avessero i bimbi, quindi fu una strage di una crudeltà satanica, questa cosa qui. Poco prima però che la diabolica decisione fosse eseguita, un angelo appare in sogno proprio a lui, a San Giuseppe, e gli comanda: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Matteo 2,13. L'angelo si rivolge a San Giuseppe, in quanto è proprio egli nella posizione di responsabile della Sacra Famiglia. A lui l'angelo appare, a lui parla, a lui viene comunicata la destinazione. È sempre a lui che verrà rivelata la data del ritorno. San Giuseppe è veramente il custode, il capo incontrastato della sua casa, nella quale tutto gli è soggetto. Un tale comando, però, parliamo del comando dell'angelo, doveva gettare, diciamo, un affanno enorme, una preoccupazione grandissima nell'anima del nostro santo, che conosceva bene la crudeltà di Erode, ma in un solo attimo intuisce e misura i pericoli della situazione. Non esita affatto, si alza in fretta e obbedisce. È spontaneo pensare che in circostanze come queste il Signore, dicevamo, avrebbe potuto operare qualche miracolo per alleviare le angustie di Maria e Giuseppe, e in particolare per sottrarre Gesù a quella indegna persecuzione. E Dio invece si serve proprio della prudenza e della pazienza di San Giuseppe per operare la salvezza della vita del Signore. E all'uomo giusto dunque, cari amici, all'umilissimo San Giuseppe tutta la responsabilità di un'impresa nobile ma anche ardua. E arriviamo alla permanenza proprio in Egitto, che dura fino alla morte di Erode, come racconta sempre il Vangelo di San Matteo. E Erode il Grande, colui che aveva ordinato la strage degli innocenti, successero i 3 figli, Archelao, Antipa e Filippo. Ad Archelao erano toccate la Samaria, la Giudea e l'Idumea. Secondo Matteo si deve al suo carattere crudele e vendicativo la scelta operata da San Giuseppe di tornare a Nazareth in Galilea, governata allora dal tetrarca Erode Antipa, e di scegliere quella località come dimora della Sacra Famiglia. E si avveravano le parole del profeta Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Infatti, come il popolo di Israele fu richiamato dall'Egitto e condotto nella terra promessa, la stessa cosa successe per Gesù. Il ritorno a Nazaret avvenne costeggiando probabilmente il Mediterraneo e arrivando al Monte Carmelo. Una tradizione locale racconta che i due stanchi pellegrini, con il loro piccolo Gesù, si riposarono nella grotta chiamata Scuola dei Profeti, uno dei luoghi più venerati della Santa Montagna. Da qui ripresero il viaggio attraverso la pianura di Esdralon, giungendo, come riporta il Vangelo di Matteo, a Nazaret, affinché si adempisse ciò che era stato predetto dai profeti: egli sarà chiamato Nazareno. Ma qui vorrei riprendere un attimo quello che ci ha detto anche San Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica a Familiaris Consortio del novembre del 1981, quando, commentando le tribolazioni della Sacra Famiglia, il Papa dice: «La Santa Famiglia è prototipo, ad esempio, di tutte le famiglie cristiane. Quella famiglia unica al mondo che ha trascorso un'esistenza anonima e silenziosa in un piccolo borgo della Palestina, che è stata provata dalla povertà, dalla persecuzione, dall'esilio, che ha glorificato Dio in modo incomparabilmente alto e puro, non mancherà di assistere le famiglie del mondo nella fedeltà ai loro doveri quotidiani, nel sopportare le ansie e le tribolazioni della vita, nella generosa apertura verso le necessità degli altri, nell'adempimento gioioso del piano di Dio nei loro riguardi». Manca anche Benedetto, Papa Benedetto XVI, il 30 dicembre 2012 ricordava: «Oggi è la festa della Santa Famiglia di Nazaret. La preoccupazione di Maria e Giuseppe per Gesù, dice il Papa, è la stessa di ogni genitore che educa un figlio, lo introduce alla vita e alla comprensione della realtà. Oggi, pertanto, è doverosa una speciale preghiera al Signore per tutte le famiglie del mondo. Imitando la Santa Famiglia di Nazaret, i genitori si preoccupino seriamente della crescita e dell'educazione dei propri figli, perché maturino come uomini responsabili e onesti cittadini, senza dimenticare mai che la fede è un dono prezioso da alimentare nei propri figli, anche con l'esempio personale». E conclude Papa Benedetto: «Nello stesso tempo preghiamo perché ogni bambino venga accolto come dono di Dio, sia sostenuto dall'amore del padre e della madre per poter crescere come il Signore Gesù in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. L'amore, dice il Papa, la fedeltà e la dedizione di Maria e Giuseppe siano di esempio per tutti gli sposi cristiani che non sono gli amici o i padroni della vita dei loro figli, ma i custodi di questo dono incomparabile di Dio». E arriviamo ora, cari amici, a Nazaret. E la profezia di Isaia chiama il Messia germoglio, e Nazaret, nel suo significato lessicale, indica proprio fiorire, il fiore, e risulta evidente l'unione tra la cittadina in cui Gesù è vissuto e Gesù stesso, anche se purtroppo, come sappiamo, questo paese non lo riconobbe mai come Messia promesso. Racconta infatti Luca nel Vangelo 16:30 che in una delle sue visite a Nazaret Gesù commentò il capitolo di Isaia. Il capitolo era Isaia 61:2, lo fece durante l'adunanza del sabato all'interno della sinagoga. Egli parte da questo testo per spiegare quella che è, in quel momento, la sua missione unica, ma l'iniziale ammirazione dei suoi concittadini si trasforma in disprezzo a tal punto che tentano di ucciderlo gettandolo giù da un dirupo. Questo perché il Signore aveva detto la verità. Perché si erano inizialmente, diciamo, lo acclamavano e poi hanno cercato di ucciderlo? Sappiamo bene perché, proprio a causa del loro cuore indurito, ancora in quel momento, Gesù faceva riferimento al profeta Elia, quando diceva: il cielo fu chiuso per 3 anni e 3 mesi, quindi non pioveva, c'era la carestia, ma Elia fu inviato da Dio a nessun israelita se non a una vedova di Sarepta di Sidone. Oppure fece riferimento al profeta Eliseo, quando andò per mondare i lebbrosi, ma non mondò, quindi non guarì nessun lebbroso ebreo, ma mondò invece e guarì Naaman il Siro. Da qui naturalmente ci fu una rivolta nei confronti di Gesù, per cercare di ucciderlo addirittura. Voi pensate dove si era arrivati. E tornando, possiamo immaginare anche l'amarezza del Signore che aveva vissuto tanti anni lì. Ma tornando a Nazareth, troviamo anche la casa della Santa Famiglia, quella in cui è avvenuta l'Annunciazione alla Vergine Maria. E pensate quante cose erano accadute. C'era stato il viaggio per il censimento, la nascita di Gesù a Betlemme, l'apparizione degli angeli, la visita dei pastori, la profezia di Simeone, poi l'adorazione dei magi, la fuga in Egitto e finalmente il ritorno in questa cittadina. E proprio nella Santa Casa, di cui abbiamo una parte, abbiamo la grazia di avere una parte di questa casa a Loreto, proprio in questa casa, la Maria, Giuseppe e Gesù sono come api che producono il miele grande delle virtù. E le virtù dominanti ci sembrano essere il silenzio e l'umiltà. Silenzio inteso come raccoglimento interiore per conversare totalmente con Dio, immergersi in Dio, parlare con Dio e nell'operare il bene. È bello vedere anche che per coltivare la virtù del silenzio, questo ci deve un po' colpire, farà anche riflettere, secondo me. Per coltivare la virtù del silenzio, soprattutto quello interiore, cioè, noi vediamo che la Sacra Famiglia non vive come isolata, lontana dal mondo, ma al contrario, è proprio in mezzo al mondo, immersa nei problemi, nelle fatiche di questo piccolo centro urbano. È proprio nel mezzo della vita quotidiana. Possiamo immaginare quanti meravigliosi colloqui d'amore con il Creatore. L'altra grande gemma di cui parlavamo, gemma preziosa che vediamo brillare, è l'umiltà. È la virtù che maggiormente dispone la nostra volontà all'obbedienza a Dio. Sappiamo bene, ricordiamo che Gesù stesso impiegò 3 ore per redimerci, 3 anni per insegnare e 30 anni per obbedire. E la grandezza di questa virtù la cita San Bernardo proprio a proposito di San Giuseppe e dice così: da ogni parte stupore, da ogni parte miracolo, dice San Bernardo, umiltà senza precedenti il fatto che Dio obbedisca a una creatura, che una creatura comandi Dio. E vediamo proprio come in questa santa famiglia l'autorità e la santità si trovano in ragioni inversamente proporzionali. Mi spiego meglio. San Giuseppe, capo della casa, è un santo la cui perfezione si sorpassa e sorpassa quella dei più grandi santi, all'interno della Sacra Famiglia aveva comunque l'ultimo posto. Egli ne era ben cosciente e tenendosi nella dovuta umiltà, guidava senza timore però né turbamento sia la sua sposa che Gesù, perché sapeva di fare così la volontà di Dio e di parlare a suo nome. E fino, voi provate a immaginare proprio il compito di questo grande santo della vita di ogni giorno nella Sacra Famiglia, no? Come noi torniamo nella nostra famiglia e quindi condividiamo con i nostri cari tutte le cose di ogni giorno, quello faceva anche San Giuseppe con la Madonna e con Gesù. Proviamo solo a immaginare la bellezza, l'amore e la grandezza di quei periodi, di quei momenti. Cosa non ha vissuto, di cosa hanno parlato all'interno della Santa Famiglia? Questo ci dà anche proprio ci dà un'idea grande, vera, di questa figura, di questo enorme, grandissimo santo. Ma una cosa ci fa riflettere, scrivo, in mezzo a tutto il frastuono che circonda la vita quotidiana, il nostro pensiero a volte, è vero, cioè, se dovessimo fermarci un attimo, dovrebbe andare verso quella infinita pace che fu presente nella vita terrena di San Giuseppe. E proprio questo contrasto ci rivela la grandezza nascosta delle cose. Qual è questa grandezza nascosta delle cose? Vediamo come molti di noi che hanno poco da dire parlino, cercando di nascondere sotto tanti discorsi vuoti una grande povertà interiore. San Giuseppe invece, che pure avrebbe avuto tante cose da dire, non parla mai, almeno per quello che noi sappiamo. Serba in fondo al suo cuore tutte le grandezze che vede, che contempla e che vive, sempre padrone di sé, per compiere accanto a Maria Santissima questa sua grande e unica missione, cooperare con il suo sacrificio di ogni giorno, frutto dell'amore di sposo e di padre fedele, gli inizi della nostra redenzione. Ma San Giuseppe, cari amici, non fu solo il santo del silenzio, del nascondimento, dell'umiltà, della preghiera, ma fu anche il santo dell'operosità. Con il suo lavoro guadagnava il pane quotidiano per i suoi cari, nel pieno abbandono alla provvidenza di Dio, senza grandi preoccupazioni. E così lavorava, faticava, si sacrificava per Gesù e Maria. Possiamo immaginarlo come un uomo che non chiede compassione o ammirazione, a lui non interessa. Nel suo lavoro, se c'è una stanchezza, la offre a Dio, non si lamenta. È un'operosità grande, tranquilla, serena e infaticabile. E così proprio l'attività esteriore, per quanto possa occuparlo nella sua fatica, non diventa mai padrona e non soverchia mai la sua, come si potrebbe dire, la sua attività interiore, cioè lo spirito. È un uomo, noi possiamo immaginarlo, costantemente in preghiera, quando lavora, quando è con i suoi cari, quando è fuori. E arriviamo così anche Gesù cresce, passano gli anni e arriviamo al 12° anno di età del Signore, come San Giuseppe faceva ogni anno, decide di recarsi con la famiglia a Gerusalemme per la Santa Pasqua, obbligo prescritto dalla legge ebraica, riservato solo agli uomini che erano in grado di compiere quel percorso a piedi e solo nel caso si trovassero a una giornata di cammino da Gerusalemme. I ragazzi erano tenuti a quella legge dall'inizio della pubertà, che era comunemente fissata intorno ai 13 anni. Le donne però non erano obbligate, perciò sia Maria che Gesù non erano tenuti a questo viaggio. San Giuseppe comunque, sappiamo bene, porta tutta la sua famiglia a celebrare la Pasqua ebraica in questo caso. Assolto l'impegno della loro presenza nel Tempio di Gerusalemme, fecero ritorno a casa. A quei tempi, tanto all'andata che al ritorno, amici, parenti e vicini formavano numerose carovane, le mogli con i mariti, le figlie con le mamme, i giovani invece avevano maggiore libertà. A motivo di questo, sia Maria che Giuseppe non erano preoccupati nel non vedere Gesù vicino a loro, pensavano infatti che fosse in un altro gruppo della carovana. Camminarono così una giornata, ci viene raccontato, fino a El Birek, come vuole un'antica tradizione, questa cittadina a 16 chilometri a nord di Gerusalemme. Giunta la sera della prima tappa, stupiti di non aver visto tornare Gesù, entrambi cominciarono a cercarlo tra parenti e conoscenti, e man mano che cercavano, la loro preoccupazione cresceva. Possiamo solo immaginare l'angoscia che avevano nel cuore. Ripercorsi i 16 chilometri, Luca racconta nel suo Vangelo. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Inizia a manifestare in modo chiaro quella che è la missione, la sua missione, quasi possiamo dire che li prepara a quella che sarà la sua futura missione, anche il suo sacrificio. Probabilmente San Giuseppe e Maria non si aspettavano che iniziasse così presto questa missione, ma di fronte a questo fatto inaspettato e quelle parole, sempre Luca nel Vangelo racconta, ma essi non compresero le sue parole. E lo stesso evangelista, concludendo il racconto di questo smarrimento nel tempio, aggiunge: Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E in Gesù quindi c'era uno sviluppo fisico e un progresso morale, e man mano cresceva, man mano si rivelava. E la missione che il Signore aveva affidato a San Giuseppe era proprio quella di esserne il sostegno, la custodia e l'autorità. Quando questa unica ed eccelsa missione fu compiuta, secondo i disegni del cielo, il nostro amatissimo santo, servo buono e fedele, scomparve dalla scena del mondo. Scomparve, cari amici, con umiltà, con modestia, nella stessa misura in cui tanto umile e modesta era stata la sua vita terrena. La morte di San Giuseppe fu nascosta come la vita, infatti non ne conosciamo né il tempo né le circostanze. Dal Vangelo comprendiamo che essa praticamente precedette l'inizio della vita pubblica di Gesù. Nessuno degli evangelisti ha specificato questa circostanza, ma la si ricava dal fatto che non si parla più di San Giuseppe in nessuna situazione o circostanza che accompagna poi i vari momenti di Gesù e della Madonna. Di preciso non sappiamo, dicevamo, quando avvenne la sua morte. L'opinione più accreditata ritiene che sia morto intorno al 30° anno della vita del Signore, quindi poco prima che Gesù iniziasse la sua missione. Questa è un'ipotesi che ci è data da molti santi, per esempio Sant'Ambrogio, Sant'Isidoro, San Bonaventura, San Bernardino, ma anche tanti altri ci dicono così. Alcuni di questi santi ritengono addirittura che San Giuseppe sia stato assunto in cielo come la Madonna. Cito a questo proposito due fra i vari santi, uno è San Bernardino, l'altro è San Francesco di Sala. Addirittura San Bernardino, durante una predica davanti a moltissimi fedeli, ebbe la visione di San Giuseppe assunto al cielo, quindi la spiegava e raccontava questa visione che lui aveva a chi in quel momento stava ascoltando la predica, ma questa non è la posizione ufficiale della Chiesa, quindi diciamo è una intuizione personale di questi santi, che non è affatto da escludere poi. Una tradizione anche di cui, riguardo alla morte di San Giuseppe, una tradizione di cui si fece portatore anche un altro santo, il venerabile Beda, vuole San Giuseppe morto a Gerusalemme proprio nel mese di marzo e nel corso di un pellegrinaggio pasquale, quindi sepolto nella valle di Josafat o a Getsemani. Altre tradizioni locali lo fanno morire a Nazareth, dove sarebbe sepolto, ma noi pensiamo soprattutto, cari amici, a quello che è stato la parte finale della vita di San Giuseppe, e lo pensiamo magari anche durante l'agonia, se c'è stata, non sappiamo in quale modo diciamo, è andato in paradiso, ma da secoli la Chiesa e tutti noi lo ricordiamo, e come potremmo non farlo, lo ricordiamo circondato dalle cure tenerissime di Maria e di Gesù, e giustamente la Chiesa lo invoca patrono dei moribondi. Ecco, dicevamo, cari amici, non sappiamo esattamente il giorno in cui il Signore ha portato San Giuseppe in cielo, ma sappiamo bene invece che per eccellenza la sua festa è il mese a lui dedicato, il mese di marzo, il 19 di marzo in modo particolare è la sua festa, proprio quando ritorna la primavera, e alla vita della natura che si rinnova corrisponde, dovrebbe corrispondere anche la vita nuova dello Spirito, simboleggiata dalla Santa Pasqua che celebra la redenzione operata da Gesù. E il mese di marzo, dicevamo, soprattutto per quelli che lo amano e gli sono devoti, è il mese del nostro San Giuseppe, il periodo consacrato al ricordo e alle devozioni in suo onore. Certo, non è che la devozione si fa soltanto a marzo, naturalmente, ma è il mese per eccellenza di San Giuseppe. E proprio in questo mese non c'è occasione più propizia affinché il San Giuseppe entri veramente nel nostro cuore, affinché diventi la nostra guida anche sul cammino penitenziale verso la Santa Pasqua, preceduta dalla Quaresima, ma anche il nostro conforto in ogni stagione della vita. E tornando proprio alla particolare festività del 19 marzo, questo è il giorno in cui si potrebbe prendere coscienza proprio della dignità, della santità eccezionale di cui Dio arricchito questo santo, e credere soprattutto nel suo grandissimo potere di intercessione presso Dio. La santità di San Giuseppe è fuori discussione, cari amici, è una santità eccezionale che deve spingere soprattutto all'imitazione delle sue virtù. Sappiamo che il fine principale della venerazione dei santi è proprio questo, cioè imitarli nelle virtù. E se sono stati casti, caritatevoli, obbedienti, se sono riusciti a condurre una vita tutta consacrata a Dio, al prossimo, soprattutto al prossimo più povero e sofferente, anche noi nell'essere veri devoti dovremmo seguirli imitandoli in questo. E alla santità personale San Giuseppe aggiunge anche un potere eccezionale, dicevamo, di intercessione presso il Signore. Gesù nulla può negare a Maria, questo ci dicono i santi, questo ci dice anche la Chiesa. ma sappiamo anche che nulla può negare a San Giuseppe. San Giuseppe, scrivo, ha una parte molto importante nella santificazione soprattutto delle anime, è la cosa che sta più a cuore al Signore. Ma sarebbe ancora più grande se con più frequenza lo avessimo a modello, se con più fiducia ricorressimo a Lui, se con più docilità ci facessimo guidare da Lui. Maestro sapiente è incaricato da Dio di condurci nella vita interiore. Veramente così è. Preghiamo San Giuseppe perché ci è da maestro. Adesso vedremo cosa dirà un altro grande santo riguardo a questa cosa. Quindi guidarci nella vita interiore, nello stesso modo in cui Lui, sotto la luce e la guida dello Spirito Santo, ha governato, voi pensate, diretto la vita di Gesù e di Maria. Non è poco, sia come tenero padre virginale che come purissimo sposo. Questo grande e nobile incarico affidato a San Giuseppe si estende ora a tutti i fedeli. Se desideriamo, cari amici, che il nostro cammino spirituale diventi proficuo o più proficuo e fruttifero, proviamo a chiedere a San Giuseppe di prenderci sotto la sua custodia e di condurci passo passo sulla via della santità che lui ha percorso in ogni istante della sua vita. E vorrei proprio citarvi a questo proposito, fra gli altri, San Cosimo Maria Escrivá de Balaguer, che scriveva: «San Giuseppe, Padre e Signore nostro, è Maestro di vita interiore. Mettiti, dice San José Maria, sotto il suo patrocinio e sentirà l'efficacia del suo potere». E poi lui, rifacendosi a Santa Teresa d'Avila, scriveva ancora: «Chi non trova maestro che gli insegni a pregare, prenda per maestro questo glorioso santo e non sbaglierà strada, perché non si può amare Gesù e amare Maria senza amare il Santo Patriarca». Guarda quanti motivi per venerare San Giuseppe e per imparare dalla sua vita. Fu un uomo forte nella fede, mandò avanti la sua famiglia, Gesù e Maria, con il suo lavoro gagliardo, custodì la purezza della Vergine, che era sua sposa, e rispettò, amò, la libertà di Dio che non solo scelse la Vergine come madre, ma scelse anche lui come sposo della Madonna. Ama molto San Giuseppe, amalo con tutta l'anima, perché è la persona, assieme a Gesù, che ha amato di più la Madonna e che più è stato in rapporto con Dio. Colui che più lo ha amato, dopo nostra madre, merita il tuo affetto, e ti conviene frequentarlo, dice San José Maria, perché è maestro di vita interiore ed è molto potente presso il Signore e presso la Madre di Dio. E apro adesso, cari amici, con un altro capitolo che magari ci stupirà un attimo. Consideriamo San Giuseppe e il sacerdozio, cioè le affinità che intercorrono tra San Giuseppe e il sacerdozio ministeriale. Luca nel Vangelo narra che, essendo trascorsi 8 giorni dalla nascita, il bambino fu circonciso e Gesù versò le sue prime gocce di sangue e di vino per la redenzione dell'umanità. Iniziano così l'immolazione e il sacrificio del Figlio di Dio che si sarebbe poi completato sul Calvario. Ora, chi operò questa prima immolazione fu proprio San Giuseppe. Non le fece lui materialmente, perché c'erano, diciamo, dei medici, sono medici che fanno questo, o i circoncisori di allora, che erano persone preparatissime in questo senso, ma chi esercitò, diciamo, il diritto a far sì che si operasse questa circoncisione fu proprio San Giuseppe, che era presente e che, esercitando proprio questa funzione e cooperando a quello che sarebbe stato il sacrificio di Gesù, veniva in un certo modo ad anticipare il sacerdozio, quel sacerdozio eterno di cui il Signore avrebbe fatto partecipe nel corso dei secoli innumerevoli schieri di apostoli. Come non rivolgersi anche in questo caso a San Giuseppe, modello perfetto e intercessore potente per tutti i nostri sacerdoti? E poi vedremo anche San Giovanni Paolo II riguardo a questa cosa ci dirà. Potrebbe sembrare, scrivo, a prima vista che tra la missione del carpentiere di Nazareth o del falegname e quella del sacerdote ci siano più dissomiglianze che affinità. A prima vista vediamo da una parte occupazioni materiali, dall'altra funzioni eminentemente spirituali. Da un lato il comune operaio, dall'altro il ministro di Dio. Ciononostante scopriamo tra la vocazione di San Giuseppe e quella del sacerdote affinità e analogie sorprendenti. Certo San Giuseppe non ebbe il potere dell'ordine, ma ebbe cari amici nel più alto grado quello di giurisdizione, avendo Dio affidato a lui i suoi più cari tesori, cioè Gesù e Maria Santissima. Il suo potere si estese sopra Gesù, capo della Chiesa, sopra Maria, madre dei fedeli, realizzando pienamente la parola che a lui applica proprio la liturgia, e Dio lo costituì padrone della sua casa e custode di tutti i suoi beni. Non dobbiamo quindi stupirci se autori e studiosi che trattano e approfondiscono la figura del nostro santo parlano espressamente della sua grazia sacerdotale. Ma vediamo più in particolare le principali affinità che intercorrono tra la missione del sacerdote e la missione di San Giuseppe. Nella Santa Messa il Signore obbedisce al sacerdote, obbedisce tra virgolette al sacerdote, nello stesso modo in cui Gesù obbediva a San Giuseppe. Il sacerdote prende l'ostia santa, la solleva, la depone sull'altare, la mette nel ciborio, nel tabernacolo, oppure la porta in processione agli infermi, la distribuisce ai fedeli, precisamente come San Giuseppe prendeva Gesù bambino, lo portava tra le braccia, lo cullava, lo depositava nella sua culla, lo dava in braccio ai pastori, ai parenti, lo portava in un luogo e in un altro. E il prodigio di Dio, che si sottomette all'uomo, si perpetua attraverso i secoli, grazie al ministero sacerdotale. Il sacerdote è colui che custodisce, protegge Gesù in qualche modo. Egli infatti, per mezzo dell'insegnamento, protegge il suo santo nome contro gli attacchi dell'incredulità. Rimuove dalla sua adorabile presenza nell'Eucaristia tutte le irriverenze e i sacrilegi. Conserva la vita di Gesù nelle anime lottando contro tutti gli influssi maligni che vogliono estinguerla. Il sacerdote condivide, sotto questo aspetto, le prerogative e le funzioni del nostro santo patriarca nel suo nobile compito di custodire Gesù. Ecco, vediamo cari amici come le affinità tra il sacerdote e San Giuseppe non siano solo esteriori o formali, ma anche sostanziali e intime. Per esempio, il sacerdote sull'altare offre Gesù a Dio Padre, rinnovando nel sacrificio incruento della Santa Messa il sanguinoso e cruento sacrificio del Calvario. Se riflettiamo, vediamo come San Giuseppe ha anticipato l'oblazione e l'immolazione di Gesù a Dio Padre, sia quando presente alla circoncisione Gesù versò le sue prime gocce di sangue divino, sia quando, tenendolo fra le sue braccia, lo offrì al Padre per la salvezza della povera umanità peccatrice. Molti sacerdoti hanno sulle labbra la preghiera, una preghiera bellissima che con tanto cuore San Giuseppe Marello, era devotissimo, il fondatore dei Giuseppini, devotissimo di San Giuseppe, recitava. La preghiera era questa: «Tu, o Giuseppe, che dopo la Vergine benedetta, primo, stringesti al seno il Redentore Gesù, sii l'esempio del nostro ministero che, come il tuo, è ministero di relazione intima col Verbo divino». E ancora San Giuseppe Marello dice: «Bisogna prendere le proprie aspirazioni da San Giuseppe, che fu il primo sulla terra a curare gli interessi di Gesù. Egli ce lo custodì infante e lo protesse fanciullo, e gli fu un luogo di padre nei primi 30 anni della sua vita qui in terra». E le affinità fra San Giuseppe e il sacerdote sono racchiuse in questa preghiera, cari amici, recitata da tante generazioni di sacerdoti e destinata anche alla preparazione della Santa Messa, dove si sottolinea la situazione privilegiata di San Giuseppe. Dice così la preghiera: «O uomo fortunato, beato Giuseppe, cui fu concesso non solo di vedere e udire, ma di portare, baciare, vestire e custodire Dio, che molti re vollero vedere e non videro, ascoltare e non udirono». E poi a questa segue l'invocazione: «O Dio, concedici che, come il beato Giuseppe, tu ci faccia servire ai tuoi santi altari con purezza di cuore e innocenza di azione, così da ricevere degnamente il sacrosanto corpo e sangue di tuo figlio e di meritare di ottenere nel secolo futuro il premio eterno». Vi ho letto questa preghiera perché proprio San Giovanni Paolo II la recitava molto spesso E lui stesso a questo proposito ci testimonia così. La recito ogni giorno, prima della Santa Messa, e certamente lo fanno molti sacerdoti nel mondo. Giuseppe non era un sacerdote, ma ebbe parte al sacerdozio comune dei fedeli. E poiché come padre e protettore di Gesù poté tenerlo e portarlo nelle sue braccia, i sacerdoti si rivolgono a San Giuseppe con l'ardente domanda di poter celebrare il sacrificio eucaristico con la stessa venerazione e con lo stesso amore con cui egli adempiva la sua missione di padre putativo del Figlio di Dio. Ecco, io direi, cari amici, che queste parole sono autorevolissime ma anche molto eloquenti. Le mani sante del sacerdote che toccano il corpo eucaristico di Gesù vogliono così impetrare da San Giuseppe la grazia di una castità meravigliosa e di una venerazione e di un amore pari a quella che egli dimostrava nei riguardi del suo amato Gesù. Ecco, adesso andiamo ad un altro tema, San Giuseppe e le missioni e i missionari. Il Vangelo racconta, sono al capitolo 16, il Vangelo racconta di come, dopo la partenza dei re magi da Betlemme, l'angelo del Signore si è apparso nel sonno a Giuseppe dicendogli: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. E Giuseppe, alzatosi, prese il fanciullo e sua madre fuggì in Egitto, restando in quella terra fino alla morte di Erode. Egli compiva, cari amici, proprio con quell'atto, e possiamo dirlo in modo chiaro, la prima missione nel mondo pagano, diventando così il primo missionario della Chiesa Cattolica, il modello di tutte quelle schiere meravigliose di missionari che nel corso dei secoli avrebbero abbandonato casa, parenti, comodità, per andare tra i popoli non cristiani a predicare il Vangelo e ad estendere il Regno di Dio. E vediamo in che modo abbia adempiuto la sua missione e cosa fece in quella terra non cristiana. San Giuseppe sicuramente, questo era normale, pregava, lavorava, soffriva, con tutti i problemi naturalmente che c'erano come ci sono in ogni famiglia, donando però tutto, dicevamo, per la gloria di Dio. E la Chiesa, quasi a dimostrare che le anime si convertono sia con la parola, sia facendosi strumento di grazia, accettando anche le sofferenze, ha dichiarato patrono delle missioni proprio San Francesco Saverio, apostolo delle Indie, e con patrona Santa Teresina di Lisieux. Ma il patrono principale e supremo delle missioni è proprio San Giuseppe, colui che la Santa Chiesa ha proclamato patrono universale. Infatti, nella natura stessa della Chiesa, come Gesù l'ha voluta, estendere e abbracciare al suo cuore tutti i popoli, e in particolare i più lontani. E a questo proposito vi parlo di San Daniele Comboni, che noi conosciamo, grande apostolo delle missioni in Africa. San Daniele Comboni aveva un forte legame con San Giuseppe. Lui stesso scrive, San Daniele Comboni, parliamo del XIX secolo in questo caso, lui scrive, fra non molto la Chiesa potrà annoverare definitivamente gli africani fra i suoi diletti figli, raccolti all'ombra dell'arca mistica dell'Eterno Patto, del pacifico ovile di Cristo, ove solo si trova la salute. E dice, ho dato tanti assalti a San Giuseppe, nel senso che non lo lasciava mai in pace perché lo pregava di continuo, e ho fatto talmente pregare, dice San Daniele Comboni, che ne sono certissimo, l'attuale critica posizione dell'Africa centrale si cambierà fra non molto in prospera condizione. E dice, il tempo e le sciagure passano, noi diventiamo vecchi, ma San Giuseppe è sempre giovane, ha sempre buon cuore e testa dritta, e ama il suo Gesù e gli interessi della sua gloria, e la conversione dell'Africa centrale interessa vivamente e sempre la gloria di Gesù. Possiamo ben dire che oggi ringraziamo il Signore per tutte le vocazioni in generale che ci sono proprio nell'Africa. Da questo continente stanno arrivando vocazioni avvagonate, che coprono la mancanza di vocazioni veramente triste che ormai è praticamente in Europa, in modo particolare, ma in buona parte del mondo. Tornando però al nostro San Daniele Comboni, possiamo notare che ha una grande devozione per San Giuseppe, ma soprattutto sente il vivo desiderio di imitarne lo zelo di precursore dei missionari. Infatti, come San Giovanni Battista fu precursore di Gesù, così San Giuseppe è stato precursore degli evangelizzatori di tutti i tempi. E San Daniele Comboni vede in questo santo patriarca il modello esemplare dei missionari proprio di tutti i tempi. Ora, poiché San Giuseppe è patrono della Chiesa Universale, non gli è stato solo affidato l'incarico di presiedere alla sua conservazione, di provvedere alla sua difesa e di cooperare alla santificazione dei suoi figli, ma soprattutto il compito di far sì che la Chiesa stessa arrivi fino ai confini della terra, affrettando, cari amici, quel giorno in cui, secondo la promessa e il desiderio di Gesù, tutti gli uomini saranno entrati nel suo cuore per formare un solo vile sotto un solo pastore. E così scriveva allora un dotto santo teologo domenicano, padre Isidoro degli Isolani. Se siamo tra il XV e il XVI secolo, nella sua Somma dei doni di San Giuseppe, scrive così: «E Dio per la sua gloria darà San Giuseppe come capo e patrono speciale, lo darà come capo e patrono speciale a tutta la Chiesa meditante». E questo santo domenicano, nella dedica che faceva la sua opera a Papa Adriano VI, scriveva: «Vi prego, o Padre del popolo cristiano, di ordinare che la Chiesa universale celebri in onore di San Giuseppe feste annue solenni, gioconde, obbligatorie. Per questi onori il regno della Chiesa militante riceverà dall'alto grande accrescimento di forza e quando avrà recuperato la pace, essa potrà versare l'acqua del santo battesimo sul capo delle barbare genti e predicare a tutti i popoli il nome di Cristo». E questo santo padre domenicano fu veramente profeta. Notiamo infatti che da quando la Chiesa ha proclamato poi San Giuseppe suo patrono universale e ha cominciato ad onorarlo con una certa devozione, anche le missioni hanno avuto un nuovo incremento e si sono moltiplicate anno dopo anno insieme al numero di missionari e alle tante numerose conversioni. Bene, cari amici, è terminato il nostro tempo. E ricordo, se desiderate leggerlo, stiamo facendo questa catechesi, questa era la penultima parte, ripresa dal libro che ho scritto, San Giuseppe e la tenerezza di Dio, edizioni Sugarco, che trovate in tutte le librerie, potete chiederlo anche su Amazon IBS se lo desiderate. E vi ringrazio per l'attenzione, non riusciamo a far telefonate, le faremo però a Dio piacendo la prossima volta. Io auguro a tutti quanti un buon mese di agosto, per chi non potrà andare in vacanza ci sarà sicuramente una preghiera reciproca fortissima da parte di tutta la grande famiglia di Radio Maria e in modo particolare agli ammalati, alle persone sole, a chi sta vivendo momenti di grande difficoltà. Siamo vicini veramente come Radio Maria, con il cuore vicini ad ognuno di voi. Un abbraccio a tutti e buon mese di agosto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.